A Palazzo Albergati apre una mostra sull'impressionismo, Monet e gli impressionisti. Siamo in compagnia della curatrice, da cui appunto inizieremo la nostra chiacchierata proprio partendo dalle particolarità di questa mostra, visto che sull'argomento ve ne sono state diverse. Quali sono le caratteristiche, le singolarità di questa esposizione? Quelle sono le caratteristiche, le particolarità di questa expo? Alors cette exposition présente d'une part des chefs-d'œuvre du musée Marmottan Monet. Allora, questa mostra ovviamente fa parte della collezione del museo Marmottan Monet, dove naturalmente ci sono i quadri più importanti del periodo dell'impressionismo, e i quadri che sono in mostra qui sono proprio una selezione di quadri che di solito non viaggiano mai. Quante opere sono esposte e, se suddivise in sezioni, con quale criterio? Combien d'œuvres et de sections? Sono 57 opere in tutto. E le sezioni? Il y a des sections? Oui, alors évidemment. Ebbene, come dicevo prima, ci sono 57 opere in mostra. Certamente ci sono anche dei criteri che noi abbiamo adottato per la selezione delle opere, che non sono solo quello della rarità dell'opera stessa e della loro qualità, ma è anche ovviamente un altro criterio che è essenzialmente importantissimo e critico, nel senso che noi mettiamo in mostra in questo caso delle opere cercando di mettere l'accento sulla provenienza dell'opera, da dove vengono queste opere. Queste opere sono parte appunto dell'ascito della famiglia di Claude Monet e di Berthe Morisot, ma anche di Victorine Dauvergie, che era la figlia del medico degli impressionisti. Comparazioni a altri artisti in mostra, oltre il già citato protagonista Monet? Il y a aussi d'autres artistes qui font partie de cette expo, à part Monet justement. Et vous avez des commentaires à faire? Mais bien sûr, j'ai des commentaires à faire. Les œuvres qui sont présentées. Bene, certamente ci sono molte opere in mostra che sono delle opere che appartengono e appartenevano alla famiglia di questi artisti, ma in modo particolare Monet era lui stesso praticamente un collezionista, e quindi c'è proprio in questa mostra lo sguardo dell'artista stesso che, mettendo insieme la sua propria collezione, vi dà veramente un panorama unico di quelli che sono le opere dei suoi amici artisti stessi. E quindi diciamo, c'è proprio questo sguardo al volo d'uccello sulla generalità e la diversità delle opere dei vari artisti, dei vari impressionisti. Naturalmente ci sono delle opere notevoli di Corot, di Boudin, ma ci sono, oltre che ha già citato Monet, Berthe Morisot, Pizarro, Sisley, Degas, e poi i successori naturalmente di questo movimento, Signac stesso, che acquisì nel XX secolo parecchie opere di Monet stesso. Quindi il panorama dell'impressionismo è visto in maniera olistica, totale, eterogenea. C'è un'opera in particolare sulla quale si vorrebbe soffermare? Un regard olistique sur l'impressionnisme en tout cas. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous aimez et que vous voulez commenter? Alors demander à un commissaire d'exposition quelle œuvre il préfère, c'est comme demander à un parent s'il a un enfant préféré. Ebbene, certamente chiedere a una curatrice di una mostra qual è la sua opera preferita è come chiedere a una madre o a un genitore se ha un figlio preferito. No, le posso parlare di un quadro che apre questa mostra, che è naturalmente il quadro che raffigura la stazione di Saint-Lazare di Monet. Perché voglio parlare di questo quadro? Prima di tutto per la sua qualità assolutamente straordinaria, poi perché è uno dei capolavori tradizionalmente da tutti accettati dell'impressionismo, e poi perché è stato solo nel 1960 che Victorine Daron-Mansi, appunto la figlia del medico degli impressionisti, ha donato questo pezzo. Si pensava appunto che fosse l'ultimo dei quadri dipinti dall'artista, questo delle impressioni sotto il vento nel 1960, e invece no, ovviamente mettiamo in mostra questa che è proprio l'ultima opera del maestro. Un'ultima domanda, emozioni. Dal punto di vista accademico conosciamo il movimento, dal punto di vista didattico ne abbiamo appunto così assimilato le varie storicità, ma in questa mostra, dal punto di vista emozionale, anche personale. Du point de vue des émotions, on connaît très bien justement le mouvement impressionniste. Toujours parler du point de vue didactique, scientifique, artistique, etc. Mais du point de vue émotionnel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette expo? Eh bien, justement, c'est une émotion évolutive. Ebbene, dal punto di vista emotivo, c'è veramente l'idea dell'emozione evolutiva dentro questa mostra, nel senso che al piano terra il visitatore si troverà davanti a una selezione ovviamente delle più grandi opere degli impressionisti, ma con un nuovo approccio, nel senso che noi abbiamo cercato di mettere l'accento sulla chiarezza dei colori su queste opere a colori particolarmente chiari, mentre al primo piano il visitatore troverà principalmente Monet e quindi avrà un'emozione non solo visiva ma anche fisica, e questo è davvero il punto culminante di questa mostra, nel senso che noi abbiamo cercato di dare il più ampio afflato possibile affinché non si descrivessero semplicemente i paesaggi come di solito si tende a pensare, ma ci fosse davvero la possibilità di evocare un'emozione spaziale, un'emozione tangibile, un'emozione dello spazio pittorico. E in effetti, non per caso, la selezione all'ultimo piano termina con l'ultima opera di Monet, che non è già più un quadro del XIX secolo, ma è già a pieno titolo del XX secolo, che si intitola Le Rose. Io ringrazio tantissimo Artemisia per questa possibilità che dà la città di Bologna. Ringrazio tantissimo la prestigiosa e professionale traduzione, del quale in realtà io non avrei bisogno, perché potrei parlare tranquillamente nel vernacolo bolognese e capirmi perfettamente con la curatrice, che ringrazio. Grazie a lei. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, gr